24 mattino. Ho guardato per mezz'ora il Festival di Sanremo. Ripetitivo, noioso, una palla tremenda. Serve rimarcarlo? Ma direi che a volte sì, serve rimarcarlo. E serviva un virus per ricordare a tutti gli idioti, antisemiti, razzisti di ogni tipo di genere che in realtà siamo tutti una sola razza, la razza umana. Serviva un virus per ricordare a tutti questi idioti che in realtà non c'è nessuna distinzione, né di razza né di colore, perché il virus non fa nessuna differenza. E va bene, le vostre voci al 349-238-6666, SMS, messaggi su WhatsApp, anche audio come avete sentito, ma ditemi, ditemi, l'avete visto Sanremo? Sì? No? Non ve ne frega niente? Vi è piaciuto? Tanto oggi si parlerà di quello. Cari miei, andatevi a riprendere il podcast delle 6.30 se ve lo siete perso, dove la nostra Marta Cagnola fornisce anche qualche indicazione. Se non l'avete visto e non volete rimanere fuori dalla conversazione, 3 o 4 spunti per dire sì sì, l'ho visto, l'ho visto. Hai visto come era vestito Achille Lauro? Anche se non hai visto niente, non importa, va bene. Siamo alla seconda parte di 24 mattino, le 7:21 minuti e 4 secondi, ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Con molti giornali che dedicano ancora l'apertura al coronavirus, come prevedibile, parla di fuga dalla Cina. Gli italiani per ora no, il quotidiano La Repubblica, che però il titolo forte ce l'ha su un'intervista a Matteo Renzi, ultimatum prescrizione. Fuga dalla Cina, italiani bloccati, scrive il Messaggero, in 600 non riescono a partire per lo stop ai voli. La Stampa parla del mea culpa di Xi, del presidente cinese, commessi gravi errori, e ci parla anche di Pechino, che dice che Roma sta esagerando. Cina, la fuga degli stranieri, è il titolo del Corriere della Sera. Lo Stato taglia i fondi, umilia la nostra scienza, è un titolo collegato a quello che abbiamo visto e alla vicenda dello Spallanzani, quello di Libero. Il quale Libero in parte, come vedete, tocca questo argomento. Argomento che toccheremo poi alle 8.30 con Maria Latella. La Grande Muraglia è il titolo del Manifesto a proposito appunto del virus. Il Sole 24 Ore sugli aspetti economici. Effetto virus sull'auto, soffre anche la moda, sfilate senza i cinesi. Avvenire su quasi una raccomandazione, virus, più controlli e meno emotività. Altre scelte sono quelle del giornale, ecco tutte le carte per arrestare Salvini, sequestrò i migranti e il tribunale protegge Conte, e questo lo definisce il piano dei giudici, il giornale. La vera barbarie, si prescrivono i veleni dell'Ilva, il titolo del Fatto Quotidiano, per il fatto che non ci sarà nessun giudizio sull'ex commissario Bondi. Cade il bluff, aumentano l'IVA, è il titolo della Verità, il governo nato per non far crescere la tassa sui consumi. Così dunque le prime pagine dei quotidiani. Noi, come sempre, iniziamo da qualche argomento laterale, a partire da Roma. Siamo a pagina 12 del Messaggero e iniziamo così. Iniziamo con quei 30.000 romani che ieri non sono riusciti a prendere il mezzo di trasporto che doveva portarli al lavoro e poi eventualmente riportarli a casa. 30.000 al giorno. Cosa è successo? Che ieri la ferrovia, la linea ATAC per Centocelle, la ferrovia si è fermata per 13 ore. Perché? l'86% dei conducenti era, apriamo virgolette, ammalato, chiudiamo virgolette. Lo racconta Lorenzo De Cicco. Siamo a pagina 12 del Messaggero e racconta anche la beffa. Ossia che non ci sarà né nessun né licenziamento né multa nella capitale alle prese col coronavirus, nessuno nel palazzone che fa da quartier generale all'ATAC sulla Prenestina ha voglia di scherzarci, però la battuta in qualche modo circola. Riecco l'epidemia, sarà sempre quella dei vigili a Capodanno? Perché la vicenda di ieri con i conducenti della ferrovia per Centocelle, malati in massa, e i romani lasciati a piedi assomiglia molto al forfè dei pizzardoni del 2014, quando la notte di San Silvestro, per schivare il turno, arrivarono all'ufficio del comandante generale dell'epoca, poco amato dalle truppe, certificati medici in batteria. Un improvviso malanno colpiva tutto il corpo dei caschi bianchi. Bello, ricorderete, ci furono mille polemiche su questo. Ora tocca ai macchinisti della linea Termini Centocelle, la ex Roma Giardinetti che collega la periferia est dell'Urbe alla stazione. La ferrovia gestita dall'ATAC dovrebbe essere riconvertita in tranvia, con una differenza per chi guida. Lo stipendio da tranviere, a differenza di quello da macchinista del treno, è più leggero, si passerebbe da 2.000 a 1.600 euro al mese. Ecco perché i conducenti hanno deciso di ammutinarsi con uno sciopero bianco. Cosa succede? Succede che si mandano anche le visite fiscali, ma i certificati ci sono tutti, e qua sarà ovviamente da interrogarsi, come ovvio, anche sui medici. 37 assenti su 43 previsti. Ci sono appunto i certificati, 13 avevano il certificato medico, quasi tutti per un'improvvisa influenza, altri 15 avevano un referto del dottore nel quale si parlava della malattia dei figli piccoli, altri 6 hanno sfruttato il congedo della legge 104 che dovrebbe servire ad assistere parenti invalidi o malati, in 3 erano assenti per la donazione del sangue. E quindi, stanti i certificati, non c'è multa, non c'è sanzione e via così. Questo il racconto di Lorenzo De Cicco a pagina 12 del Messaggero. Roma, che si ritrova anche con questo paradosso, ancora in tema dei trasporti, e siamo sul quotidiano La Repubblica, pagina 19, con un pezzo delizioso di Paolo Di Paolo sulla vicenda della stazione Barberini. Dalla stazione si esce, ma non si entra, lo strano caso del metro aperto a metà. Perché che cosa è successo? Che la stazione della metro A Barberini ha riaperto dopo quasi un anno solare dalla chiusura, ma come segnala l'annuncio in italiano che la comitiva in questione, perché Paolo Di Paolo si trova davanti a una comitiva di stranieri, non coglie, l'accesso non è attivo. Tradotto, si può uscire dalla stazione Barberini, ma non si può entrare perché la scala mobile è ancora rotta. La metro A, l'underground della malandata capitale, in una giornata primaverile di gennaio che diventa gelida dopo il tramonto, festeggia una guarigione fittizia, il suo benessere intermittente. E per fare altri esempi, la fermata Baldo degli Ubaldi, per dire chiusa per 3 mesi, ha riaperto il 10 gennaio vantando 6 scale mobili su 12 funzionanti, poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un'ultima scala mobile, l'entrata e l'uscita dei viaggiatori sarà al momento consentita solo dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi. E questa è anche la situazione della metropolitana a Roma. Ci spostiamo invece su una storia dolorosa, ovviamente è tutta da leggere, da capire, da vedere fino in fondo, e però per come la raccontano i quotidiani è andata così. È la vicenda di un vigile urbano, un uomo della polizia municipale di Palazzolo sull'Oglio, e siamo in provincia di Brescia. Un vigile linciato sui social per un parcheggio. Che cosa è successo? È successo che siamo nel gennaio del 2019 e quest'uomo, che si chiama Gianmarco Lorito, origini siciliane, niente figli, lobby del calcio balilla, è con i colleghi di Palazzolo all'Università di Bergamo, seguono un corso antinfortunistica nella sede centrale di Via dei Caniana, fuori dall'Ateneo dell'auto della polizia locale. l'ha parcheggiata sulle strisce del posteggio riservato ai disabili. Poi ammetterà l'errore e anzi pagherà per quell'errore. Alla guida c'era lui, Gianmarco. L'immagine viene catturata da uno smartphone. A rilanciarla sui social per denunciare il fatto è Giovanni Manzoni, presidente della sezione bergamasca dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi e Civili. La notizia inizia a girare, lui viene insultato dappertutto. Cosa è successo ieri? Che si è tolto la vita. Si è sparato un colpo in testa, un colpo nella sua auto e appunto in questo modo è morto. I familiari attribuiscono questo alla gogna che si è scatenata sui social. È probabile che ci fossero altri motivi, probabilmente più profondi, e però sicuramente è probabile che questa vicenda abbia avuto un impatto. Tra l'altro il quarto caso di vigili che si tolgono la vita negli ultimi 3 anni nella sola provincia di Brescia, tra Darfo, Desenzano del Garda e Travagliato. È uno dei più grandi fallimenti umani e professionali da quando sono sindaco, dice Gabriele Zanni, primo cittadino di Palazzolo. Poi lui appunto si era scusato, aveva detto ho fatto un errore, mi sono sbagliato con la segnaletica, aveva dato 100 euro che è più del corrispettivo della multa all'associazione appunto Mutilati e Invalidi, e però appunto forse non ha retto, forse perché il suicidio è sempre qualcosa di imperscrutabile, non ha retto a questa pressione. Chiudiamo con qualcosa un po' più leggero, però è una vicenda che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, c'era già sulle pagine dei giornali, adesso ha un seguito, è la vicenda dell'oratorio di Palermo. Oratorio di Palermo, il giudice aveva stabilito, lo ricorderete, lo avevamo raccontato, i vicini avevano protestato per il troppo rumore che c'era, il giudice aveva dato tutta una serie di prescrizioni per cui per esempio a basket non si poteva giocare più di 1 ora a settimana perché appunto troppo rumore, troppi fastidi. Ebbene, la vicenda sta evolvendo perché in questo oratorio di Palermo, quello della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, che cosa è successo? Che sono stati convocati un po' tutti gli oratori con un sit-in di protesta, è arrivato anche il sindaco Leo Luca Orlando e qua Laura Anello a pagina 15 della Stampa raccoglie anche quelli che sono le voci dei vicini, no? Questo è l'inferno, altro che chiesa. Mario, insegnante, residente al terzo piano del palazzo che prospetta sull'oratorio della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù a Palermo, schiuma di rabbia. Qui, in una strada che ancora conserva un'aria da vecchio quartiere, a metà tra città ricca e povera, è guerra per il rumore provocato dai ragazzi che giocano nel cortile. Il giudice ha dato ragione ai residenti, stremati dai colpi di pallone, dal rumore e da tutto il resto. Qual è il punto? Il punto è che il giudice ha detto anche, beh, sì, forse potete proseguire, però dovete fare dei lavori per esempio di insonorizzazione, ma questi lavori costano tanto e l'oratorio non se li può permettere. Uno dei parrocchiani storici, Enzo Saieva, dice, se fa giurisprudenza questa sentenza, cosa succederà ai tanti oratori che sono presidi sul territorio, nelle periferie, nei quartieri difficili? Ebbene, anche qua mi pare si apre un tema. Una pausa. Cosa mi son perso? Ho sentito solo adesso che bisogna sostenere la candidatura di Paolo Mieli a Presidente della Repubblica Italiana, ma quoto al 100, al 200%, mitico Paolo. Ormai la macchina è partita, direttore, la macchina è partita, ci siamo. Ricordati che sempre la mia condizione è sia presidente del PD. No, per carità, io accetto solo ruoli bipartisan. Niente. Mio, certo, naturalmente. Mieli presidente, l'hashtag, iniziamo. I vostri messaggi audio su WhatsApp al 349-238-6666. Allora, caro Paolo, veniamo alle cose di giornata. Tra un attimo andremo, anche se non la troviamo sui giornali ovviamente, alla questione del, discorso sullo stato dell'unione di Donald Trump. Ci arriviamo subito dopo la pausa per il traffico. Prima però, beh, insomma, un'occhiata a tutte le notizie che arrivano sulla questione del coronavirus, con l'aggravamento dei due pazienti che si trovano, i due coniugi cinesi che si trovano allo Spallanzani, e il Sole 24 Ore che fa anche un po' di conti sull'impatto economico, soprattutto su due settori, quello dell'auto e quello della moda. Stefano Carrere, Filomena Greco, sul Sole 24 Ore, Cina. Il coronavirus minaccia la catena globale delle forniture, Hyundai sospende la produzione in Corea, mancano componenti made in China, attesa flessione del 30% delle vendite di auto sul mercato cinese, primi guai, questo dice l'articolo, per le aziende italiane. Poi le borse sono più esposte, come era ovvio aspettarsi, e soprattutto vedo un altro articolo sul Sole 24 Ore, quello di Giulia Crivelli, la Milano della moda perde 1000 grandi acquirenti cinesi, dal 18 al 24 febbraio Milano torna a capitale prêt-à-porter in grado di sfidare Parigi, ma i voli cancellati e la prudenza impediscono a operatori e stilisti di lasciare Pechino. Che significano questi articoli? Significano che dobbiamo ancora vedere se questa pandemia è una pandemia universale, se veramente l'allarme non è stato eccessivo. Io non credo che sia stato eccessivo, ma comunque dobbiamo ancora vederlo, però i danni sull'economia, quelli ci sono già. Ci sono dei danni che sembrano poter essere anche chissà quanto transitori in termini di rapporti tra Italia e Cina. Lo racconta bene Francesca Sforza in un retroscena, pagina 5 del quotidiano La Stampa, nel quale retroscena parla di una Pechino irritata con Roma, no? Sotto dice, le vesti. Ci avete voltato le spalle, sì, ho letto anch'io questo articolo, mi ha fatto impressione, perché noi avevamo buoni rapporti, particolari buoni rapporti, mi ricordo un andirivieni di Beppe Grillo all'ambasciata cinese negli ultimi tempi, viaggi continui di esponenti del Movimento 5 Stelle in Cina, sembrava ci fosse qualcosa di misterioso, ma misterioso e positivo, nel senso che aveva, che aveva fatto rapporti meravigliosi fra l'Italia e la Cina. Poi nei primi tempi, nei giorni scorsi, ti ricorderai, l'abbiamo detto anche qui, la Cina ci aveva ringraziato per il comportamento dello Spallanzani. Adesso la Cina si è accorta di qualcosa che non va e ci ha messo nella lista dei cattivi. Dice che l'Italia non si comporta Leggo quello che è stato dichiarato, no, dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese diretto all'Italia. Sotto il felpato linguaggio diplomatico si intravede un certo filo di irritazione. È così, auspichiamo che l'Italia abbia un giudizio obiettivo, giusto, calmo e razionale dell'epidemia e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenere e controllare. Il che vuol dire, occhio, state un po' esagerando, insomma, mi sembra di leggere. Sì, ti segnalo anche, lo vedo sul Libero, ne abbiamo anche di questo parlato nei giorni scorsi, che c'è un incubo che arrivino, che il coronavirus arrivi tramite i migranti, arrivi dall'Africa, perché come sappiamo la penetrazione cinese in Africa è forte, lì i controlli sono minori o nulli, e c'è questo incubo. Libera pagina 6, articolo di Massimo Sanvito, c'è una conduttrice che dice in trasmissione chiama tanta gente preoccupata da un possibile arrivo del virus coi barconi. Ora ovviamente qua si uniscono intenzioni politiche, cioè di lanciare sempre l'allarme salviniano sui barconi che portano i migranti, però registriamolo, perché sta montando nel paese questo che viene definito incubo. Incubo. Ti porterei sulla politica. Da cosa vogliamo iniziare, Paolo? Vai, lascio a te la scelta. Insomma, ci sono un po' di frattaglie oggi, appunto, di guarda, battaglia le cose politica. Sembravano più tranquille nella politica, se non che vedo nel Sole 24 Ore, sul Sole 24 Ore, che c'è qualcosa che non va nella nomina delle commissioni. Come si sa, adesso la faccio breve, a metà legislatura le commissioni cambiano, cioè il presidente delle commissioni, proprio per verificare lo stato della legislatura, qui è cambiata la maggioranza, e dovrebbero cambiare le nomine nelle commissioni, ma non c'è, non si riesce a trovare un accordo nella nuova maggioranza, accordo solo su 3 presidenze a tempo. Ci racconta Manuela Perrone, sempre sul Sole 24 Ore, ancora nessuna intesa per la bicamerale d'inchiesta sulla sulle crisi nel credito, quella importante, sì. Una giornata di tensione, stop a Nannicini al lavoro, il Movimento 5 Stelle arroccato sul reddito, c'è anche una mappa per chi si interessa minuziosamente di questo tipo di sottogoverno, sì, anche se sì. Non lo dico con intenzione negativa, una mappa su tutti quelli che vengono bloccati, sì. Fra i capi delle commissioni, ricordalo sempre, ci sono i famosi Borghi e Bagnai, i due la coppia no euro, Lega, sì. Sì, che insomma più antipatizzanti nei confronti dell'euro, sì. Vedo una X, sì, sì, sì. Al Senato Bagnai è presidente della commissione finanze e Borghi è alla Camera presidente della commissione bilancio. Sono commissioni importanti perché poi da quelle passano i lavori di tutti i provvedimenti economici che hanno a che fare con l'economia, ovviamente prima di arrivare naturalmente in aula. Andiamo un attimo in anticipo col traffico, poi facciamo un altro passaggio sulla politica e poi andiamo a Trump. Mattino. Dunque, vorrei pescare dal Corriere della Sera questa bella analisi, questo bel racconto, no, di Antonio Polito. Siamo dalla prima pagina, pagina 9, dove un po' si dà un'occhiata a come si sta muovendo la Lega, perché visto che ci aspetta una traversata piuttosto lunga prima che si arrivi al voto, anche per tutta una serie di scadenze istituzionali, ebbene, insomma, sembra che l'avvicinamento verso il centro per poter cercare qualche voto anche là sia in ballo. Sì, il sottotesto di questo articolo di Polito è che ormai la Lega ha capito che non si va al voto e che si arriverà con questo Parlamento alle elezioni del Presidente della Repubblica, cioè al 2022, e quindi sta facendo tutta una lunga marcia, così la definisce nel titolo l'articolo di Polito, per rientrare nei giochi, perché un conto è se si fosse votato subito, ma se si arriva alle elezioni del Presidente della Repubblica, non vuole, vuole evitare che si faccia una larga maggioranza, magari coinvolgendo anche Forza Italia o addirittura Fratelli d'Italia, rimanere nell'angolo, visto che la campagna contro Salvini è ben mirata. E quindi una grande svolta al centro della Lega. Sì. Hai notizie delle sardine oggi, direttore? Le cerchi avidamente. C'è un articolone del Corriere di Monica Guerzoni che dice che le sardine si sono date da fare, cominciano a dire allora sui candidati Dem. Per le regioni, allora hanno bocciato Vincenzo De Luca il campano, hanno promosso Eugenio Giani il toscano, e poi danno anche dei giudizi singoli sugli esponenti del Partito Democratico, cioè dicono che non gli piace Lotti, non gli piace Minniti, non gli piace Franceschini è il capo della delegazione, sì. Dem al governo, ricordiamolo, e gliene piacciono altri. Insomma, stanno facendo qualcosa di diverso da quello che avevo annunciato. Adesso stiamo un po' in silenzio per alcune settimane, poi ci rivedremo a Scampia, sì. Tra qualche tempo, e lì torneremo allo scoperto. Neanche per niente, ci sono state, come è noto, ne abbiamo già parlato, quella foto con i Benetton che ha provocato, certo. Uno sconquasso, ma c'è anche qualcosa di più. Io mi ricordo quel Stefano Gongo, il giornalista che è capo delle sardine romane, che era finito nei guai perché aveva aperto a Casa Pound per, sì. La manifestazione nazionale delle sardine, che oggi se ne esce anche lui sul Corriere della Sera con un'intervista dicendo che le sardine sono manovrate, in piazza andrà meno gente. Marco Travaglio sul Fatto se la prende con una intervista a Santori, il leader delle sardine, sì. perché aveva in qualche modo sdoganato i Benetton dicendo ma sì, aspettiamo la condanna prima di prendere delle decisioni. Insomma, c'è tempesta, sì. Le sardine non nuotano in un mare calmo, ecco. Carmelo Lauricella, peschiamo un audio di Trump di questa notte, ce l'abbiamo sotto mano ancora da qualche parte oppure no? Via via, sentiamo un passaggio. The unemployment rate is the lowest in over half a century. Allora, Donald Trump che tiene il discorso sullo Stato dell'Unione questa notte, un discorso nel quale di fatto ha celebrato i suoi anni di presidenza in vista dell'appuntamento di novembre, un discorso che si è concluso, lo diciamo, con questo gesto pazzesco di Nancy Pelosi che assistendo da dietro, no, al discorso del presidente, come deve fare la presidente appunto della Camera, la speaker della Camera, ha strappato il discorso di Trump alla fine del discorso. Ecco, ma perché, spieghiamolo, c'è ovviamente che i democratici siano contrari al discorso di Trump, ci sta tutto, ma era successa una cosa nella giornata molto vivace, cioè che le primarie democratiche sono andate nel caos perché è fallito tutto il sistema informativo e lo racconta benissimo sul Sole 24 Ore Riccardo Barlam. C'è stato un ritardo senza precedenti nella pubblicazione dei risultati del voto e il Presidente degli Stati Uniti, prima di fare il discorso di cui stiamo parlando, si è messo a scherzare, a ironizzare, dice ma questa volta diranno di nuovo che sono stati i russi, e questa cosa qua ha mandato i democratici che le hanno ritenuto una mancanza di fair play, l'ha mandato su tutte le furie ed ecco il comportamento della Pelosi che però, come tu correttamente hai detto, sarà sui giornali di domani perché è successo questa notte. Certo, è già da tutte le parti sui social ovviamente questo gesto ultra condiviso. Ti vorrei portare a pagina 15 del Corriere della Sera con Stefano Montefiori che ci racconta una storia che sta circolando da qualche giorno in realtà e poi finalmente il Corriere la prende di petto ed è la storia di Mila, 16 anni, una studentessa francese la quale ha insultato l'Islam in un video, se non vado errato, attacca un po' tutte le religioni ma in particolare l'Islam con degli insulti e adesso è sotto scorta ed è stata tolta da scuola per le minacce e c'è tutto un dibattito che si è aperto in Francia su quanto si possa dire, come si possa dire tutto questo, no? Sì, la studentessa è sedicenne, una studentessa di Villefontaine che, come hai detto tu, una liceale, è stata tolta da scuola, messa sotto scorta, ma la cosa che incuriosisce di più in questo articolo di Stefano Montefiori è che la ministra l'ha accusata, cioè il governo l'ha accusata, sì. Ha detto all'esula libertà di coscienza. Lei in realtà, insomma, sì, la ministra della giustizia, scusami, è giusto, sì, per sì, la precisione, sì. Nicole Belloubet, che è ministra della giustizia, e appunto ha detto ha recato offesa alla libertà di coscienza. E questo anche che ha creato questo grande dibattito, anche perché la Francia, come noi sappiamo, è custode della libertà di coscienza, sostiene che deve essere difeso ogni culto e quindi a 5 anni dalla strage di Charlie Hebdo questa studentessa che punta il dito contro l'Islam ha scatenato un putiferio, è solo il Corriere della Sera mi sembra che se ne è occupato ampiamente, ma la Francia e i giornali francesi stamattina sono pieni di questa vicenda, come è ovvio. Ti porterei su questo dibattito che si è aperto sulle foibe, perché ieri c'è stato un convegno alla Camera con l'AMPI, l'Associazione dei Partigiani, e insomma c'è una visione dalle due parti, per così dire, anche sui quotidiani di come leggere la questione. Sì, se ne occupano soprattutto i giornali di destra, perché l'AMPI, che come è noto l'Associazione Nazionale dei Partigiani, è sembrata, il convegno era al Senato, è sembrata in qualche modo attenuare il dramma delle foibe. Ricordo che questo si celebrerà il 10 febbraio, c'è una giornata apposta per il ricordo delle foibe, e questo convegno si è svolto in anticipo e l'AMPI ha voluto più parlare, questa almeno è l'accusa dei giornali di destra, che però hanno toni molto duri, il giornale dice Italia senza vergogna in un articolo di Carmelo Caruso, ha voluto più parlare, dicevo, l'associazione dei partigiani, dei crimini del fascismo commessi da quelle parti piuttosto che dei crimini titoisti, Maresciallo Tito, cioè i crimini comunisti che avevano ficcato dentro queste grotte carsiche non solo degli ex fascisti ma anche degli antifascisti, insomma se ne erano presi con italiani in quanto italiani. Loro hanno accusato la destra di strumentalizzare questo dibattito e quindi, siccome siamo ancora qualche giorno prima alle celebrazioni delle foibe, si può prevedere un clima infuocato a parlare di foibe su questo tema. E su questo chiudiamo. Grazie anche per oggi a Paolo Mieli, che ritroviamo venerdì. Oh, stanno arrivando un sacco di messaggi. Poi venerdì li facciamo ascoltare. Grazie Paolo Mieli, grazie direttore. Ci ritroviamo venerdì. Però sempre la condizione. Spezia, presidente del PD. No, per carità, trovami un altro ruolo. Qua stanno dicendo. No, Paolo Mieli, presidente la Repubblica, Barisoni presidente del Consiglio, beh trovatemi un posto di governo, non un posto politico, io sto qua, mi piace così tanto essere, no, senza una parte politica, mi ci diverto, mi ci trovo a mio agio, grazie Barisoni, Paolo. si consideri già nominato, affida l'incarico, Paolo Mieli affida l'incarico a Barisoni. Il GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo tra l'altro di ricerca.